Allora, nuovo corteo contro alternanza scuola-lavoro per la morte di Lorenzo Giuseppe qua a Bologna. Com'è andata? Qual è il vostro commento? Ah, penso sia andata bene, è stata una giornata importante di lotta. Abbiamo dimostrato che da Roma questo movimento studentesco ha la possibilità di espandersi su tutta Italia, di arrivare in tante città, come era già successo a Torino e in Toscana, come è successo anche oggi a Bologna, quindi siamo contenti del risultato. La cosa sicura è che questa non è la fine, ma è una tappa di un percorso che abbiamo intenzione di portare avanti. Per cosa protestate? Quali sono le vostre richieste? Protestiamo perché questo sistema scolastico non è da 30 anni che adotta una politica esclusivamente di tagli, non ascolta le necessità e i bisogni di noi studenti, ci tratta essenzialmente come dei numeri o con nel caso dell'alternanza scuola-lavoro del PCTO o degli stage come dei lavoratori sfruttati e non pagati, mandati in fabbrica e ci mandano a morire di fatto, perché è quello che effettivamente è successo. Pensiamo che questa comunque sia una lotta che vada condotta anche al fianco dei lavoratori, perché appunto sono morti due studenti in alternanza scuola-lavoro, ma l'anno scorso sono morti 1400 lavoratori, quindi è un piano di lotta che coinvolge più classi, tra virgolette, se così vogliamo definirle. Ho sentito degli slogan contro il ministro dell'istruzione Bianchi. Chi sono i vostri avversari? A chi vi rivolgete? Beh, sicuramente tutte le istituzioni scolastiche che, come detto prima, da 30 anni stanno adottando una politica di tagli, e più nello specifico in questo caso il ministro Bianchi e Premier Draghi, che col PNRR stanno pienamente in linea con le politiche che da 30 anni a sta parte distruggono la scuola pubblica, andando verso un'istruzione più professionalizzante per fornire anche in questo caso manodopera gratuita o sottopagata. Però sappiamo anche che queste direttive non sono solo nella testa di Bianchi e di Draghi, ma arrivano dall'alto, arrivano dall'Europa, quindi come nemico vediamo anche l'Europa.